Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. La mattina del 18, la Pravda pubblicò un duro proclama al popolo russo scritto da Lenin. Quel numero, di cui furono stampate centinaia di migliaia di copie, venne affisso su tutti i muri e distribuito in tutto il paese. Il secondo congresso panrusso dei soviet ha conferito la maggioranza al partito bolscevico. Dunque, solo un governo costituito da questo partito può essere un vero governo sovietico. È di pubblico dominio che il comitato centrale del partito bolscevico, alcune ore prima della costituzione del nuovo governo e prima ancora di presentare la lista dei suoi membri al secondo congresso panrusso dei soviet, ha convocato 3 dei membri più importanti della sinistra socialista rivoluzionaria, i compagni Kamkov, Spiro e Karelin, per proporre loro di far parte del nuovo governo. È triste dover ammettere che essi hanno rifiutato, un rifiuto inammissibile da parte di rivoluzionari e di difensori della classe operaia. Siamo sempre pronti ad ammettere la sinistra socialista rivoluzionaria nel governo, ma come partito di maggioranza al secondo congresso panrusso dei soviet abbiamo il diritto e il dovere, innanzi al popolo, di costituire un governo. Compagni, ieri, 17 novembre, alcuni membri del comitato centrale del nostro partito e del consiglio dei commissari del popolo, Kamenev, Zinoviev, Nogin, Rykov, Miliutin e alcuni altri si sono ritirati dal comitato centrale e gli ultimi 3 dal consiglio dei commissari del popolo. Tali compagni hanno agito da disertori, giacché non solo hanno abbandonato i posti affidati a loro, ma hanno disobbedito alle istruzioni del comitato centrale del nostro partito, in base alle quali prima di ritirarsi avrebbero dovuto attendere le decisioni delle organizzazioni bolscevicche di Pietrogrado e Mosca. Nel condannare totalmente questa diserzione, siamo profondamente convinti che tutti gli operai, soldati e contadini consapevoli appartenenti al partito o semplicemente simpatizzanti rigettano allo stesso modo la condotta di questi disertori. Ricordatevi che Kamenev e Zinoviev, prima dell'insurrezione di Pietrogrado, avevano già agito come disertori e crumiri. Alla seduta decisiva del Comitato Centrale, il 23 ottobre, essi votarono contro l'insurrezione. Non solo. Perfino in seguito alla decisione del Comitato Centrale, persistettero nel diffondere le loro idee fra i lavoratori. Fortunatamente, il dilagante entusiasmo delle masse, il nobile eroismo di milioni di lavoratori, soldati e contadini di Pietrogrado e Mosca, del fronte, delle trincee e dei villaggi, cacciarono i disertori come un treno sparpaglia la segatura. Lasciamo che questi uomini di scarsa fede, esitanti, dubbiosi, che si lasciano spaventare dalla borghesia o capitolano dinanzi alle grida dei suoi complici, diretti o indiretti, si crogiolino nella vergogna. Tra le masse operaie e tra i soldati di Pietrogrado, Mosca e ogni altro luogo non vi è alcuna titubanza. Noi non ci sottometteremo agli ultimatum di gruppi intellettuali che hanno alle proprie spalle non le masse, ma i cornilovisti, i savinkovisti, gli Junker e tutti i loro simili. L'intero paese rispose sollevandosi come un vento di tempesta. In nessun luogo a tali disertori fu consentito di comunicare alle masse la propria opinione. Allo JIC il popolo fece pervenire la dura condanna dei dissidenti. Per diversi giorni Smolny fu invasa da delegazioni e comitati che venivano a esprimere l'indignazione del fronte, della regione del Volga, delle officine di Pietrogrado. Perché si sono permessi di uscire dal governo? Sono forse stati pagati dalla borghesia per distruggere la rivoluzione? Devono tornare e sottomettersi alle decisioni del comitato centrale. Solo la guarnigione di Pietrogrado sembrava incerta. Il 24 novembre si tenne tra i soldati un grande comizio. Una volta che i rappresentanti di tutti i partiti ebbero espresso la propria opinione, la politica di Lenin fu approvata da una grande maggioranza e la sinistra socialista rivoluzionaria invitata a entrare nel governo. I menscevichi inviarono ancora un ultimatum in cui si richiedeva di liberare tutti i ministri e gli Junker, di restituire la totale libertà a tutti i giornali, di disarmare la Guardia Rossa e di porre la guarnigione agli ordini della Duma. A tutto questo, Smolnin rispose che tutti i ministri socialisti e quasi tutti gli Juncker erano già stati liberati, che tutti i giornali, ad eccezione di quelli borghesi, godevano della piena libertà e che il Soviet avrebbe conservato l'assoluto comando delle forze militari. Il 19, la conferenza per la formazione di un nuovo governo si sciolse e, a uno, i membri dell'opposizione si recarono a Mogilev, dove, sotto la protezione dello Stato Maggiore, continuarono a formare governi su governi. Il 27 novembre, una commissione di cosacchi si presentò a Smolny per parlare con Trotsky e Lenin. Chiesero in primo luogo se fosse vero che il governo sovietico non aveva alcuna intenzione di distribuire le terre cosacche ai contadini della grande Russia. «No», rispose Trotsky. I cosacchi si consultarono prima di proseguire. «Bene, ma il governo sovietico ha intenzione di confiscare le terre dei grandi proprietari cosacchi e di dividerle tra i lavoratori?» Lenin rispose: «Questo spetta solo a voi farlo. Qualsiasi sarà la vostra decisione in proposito, noi vi sosterremo. La cosa migliore sarebbe per voi costituire dei soviet cosacchi, così da essere rappresentati allo Shik. In tal modo il governo sovietico diventerà anche il vostro». I cosacchi, allontanatisi, discussero tra di loro queste dichiarazioni. Dopo due settimane il generale Kaliedin riceveva una delegazione delle sue truppe. «Volete», gli domandarono, «permetterci di dividere i beni degli agrari cosacchi tra i lavoratori cosacchi?» «Preferirei morire», rispose Kaliedin. Nel giro di un mese Kaliedin assistette al graduale disfacimento del suo esercito e, non riuscendo a sopportare la sconfitta, si fece saltare le cervella. Con questo il movimento cosacco giunse al termine. A Mogilev erano riuniti il vecchio Zhik, i capi socialisti moderati, i capi degli ex comitati dell'esercito e gli ufficiali reazionari. Lo Stato Maggiore, nel rifiutare con fermezza di riconoscere il consiglio dei commissari del popolo, aveva riunito intorno a sé i battaglioni della morte, i cavalieri di San Giorgio e i cosacchi del fronte, mantenendosi in contatto con gli addetti militari alleati, la Rada ucraina e, prima del suo disfacimento, il movimento di Kaliedin. I governi alleati, ignorato il decreto sulla pace dell'8 novembre, in cui il congresso dei soviet reclamava l'armistizio generale, furono nuovamente interpellati, attraverso i loro ambasciatori, il 20 novembre, da Trotsky. «Signor ambasciatore, ho l'onore di informarvi che il congresso panrusso dei soviet, dei deputati operai soldati, ha costituito l'8 novembre un nuovo governo della Repubblica Russa che guida il paese attraverso i commissari del popolo. Il presidente di questo governo è Vladimir Ulyanov Lenin e io, in qualità di commissario del popolo agli affari esteri, ho la direzione di quest'ultima politica. Nel permettermi di richiamare la vostra attenzione sul testo approvato dal congresso panrusso dei soviet relativo alla nostra proposta di armistizio e di pace democratica, senza annessioni né indennità, fondata sul diritto dei popoli a disporre di se stessi, vi prego di considerare questo documento come una proposta ufficiale e immediata di armistizio su tutti i fronti e come strumento di apertura delle trattative di pace. Tale proposta è rivolta contemporaneamente a tutti i popoli belligeranti e ai loro governi. Posso assicurare, signor ambasciatore, la stima profonda del governo sovietico per il vostro popolo, che non può non desiderare la pace come tutte le popolazioni devastate e spossate da questo irreparabile macello». La lettera di Trotsky fu accolta con gelido sdegno dagli ambasciatori alleati, i quali rilasciarono ai giornali interviste anonime colme di ironia. Con il decreto sulla nazionalizzazione delle banche, la creazione del Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale, l'applicazione effettiva del decreto sulla terra, la riorganizzazione democratica dell'esercito, i cambiamenti radicali operati in tutti i rami dello Stato e della vita sociale, provvedimenti che solo la volontà della massa di operai, soldati e contadini poteva realizzare. La Russia proletaria cominciava lentamente, tra diversi errori e altrettanti scossoni, a delinearsi. Non era stato attraverso un compromesso con i gruppi possidenti o le altre formazioni politiche, né attraverso una conciliazione con il vecchio apparato governativo che i bolscevichi avevano conquistato il potere. Neppure dovevano ciò alla violenza organizzata di una piccola consorteria. Se in tutta la Russia le masse non fossero state pronte a insorgere, i bolscevichi avrebbero fallito. La vera ragione del loro successo risiedeva nella capacità di sollevare ampie ed elementari aspirazioni negli strati popolari ai quali essi avevano fatto appello per distruggere il vecchio regime ed edificare sulle sue rovine ancora fumanti un mondo nuovo. Il 18 novembre la neve ricominciò a cadere e al nostro risveglio una soffice coltre bianca ricopriva i parapetti delle finestre e i fiocchi volteggiavano così fitti da limitare la visibilità a meno di 10 passi. Un candore abbagliante avvolgeva la città, dapprima malinconica e cupa, detergendo le strade dalla sporcizia melmosa. Le carrozze, guidate da cocchieri intabarrati, la barba ricolma di ghiaccioli, furono sostituite da slitte saltellanti sulle vie dissestate. Malgrado la rivoluzione e il vertiginoso e terribile tuffo nell'ignoto che la Russia intera si apprestava a compiere, la comparsa della neve fece diffondere gioia e allegria in città. Tutti sorridevano, la gente per le strade tendeva giocondamente le mani per afferrare al volo i morbidi fiocchi. Scomparso il grigiore, i colori vivaci delle guglie e delle cupole spiccavano maggiormente in tutto il loro asiatico splendore sullo sfondo innevato. Verso mezzogiorno un sole pallido e slavato si levò nel cielo, quasi intendesse esprimere con il suo coraggio la fine di quei mesi piovosi cui si accompagnano sempre reumatismi e raffreddori. Col rianimarsi della vita cittadina la stessa rivoluzione parve riacquistare vigore. Una sera stavo seduto in una piccola trattoria dinanzi all'entrata di Smolny. Si trattava di un luogo rumoroso dal soffitto basso, denominato la capanna dello zio Tom e frequentato in modo assiduo dalle guardie rosse. Queste, adunate attorno a piccoli tavoli sulle cui tovaglie macchiate erano adagiate enormi taglieri di terracotta, spargevano per la sala l'acre fumo delle loro sigarette mentre i camerieri correvano avanti e indietro gridando «Sicias! Sicias! Subito, subito!» In un angolo era seduto un uomo in uniforme di capitano il quale si sforzava, nonostante le interruzioni, di parlare ai presenti. «Voi siete dei veri assassini!» gridò. «Voi sparate nelle strade sui vostri fratelli!» «Quando e dove avremo fatto questo?» domandò un operaio. «Domenica scorsa, quando gli Junker...» «Ma loro non hanno forse sparato su di noi?» controbatté uno degli uomini mostrandogli il braccio fasciato. «Ho un bel ricordo di quei banditi!» Allora il capitano, urlando con tutta la forza dei suoi polmoni, «Dovevate restare neutrali! Con quale diritto avete abbattuto il governo legale? Chi è questo Lenin? Un tedesco? E voi siete un controrivoluzionario!» gli gridò. Quando riuscì a farsi sentire di nuovo, il capitano disse: «Voi pretendete di essere il popolo russo, ma il popolo russo non siete voi, sono i contadini, aspettate che i contadini...» «Sì!» gridarono. Aspettate che i contadini parlino! Noi sappiamo cosa diranno! Non sono forse lavoratori come noi? Dunque, a lungo andare, tutto poteva realmente dipendere dai contadini. Per quanto politicamente arretrati, questi avevano le proprie idee e costituivano più dell'80% della popolazione. Dal momento che i bolscevichi non potevano vantare molti seguaci nelle campagne, una dittatura di soli operai non sembrava possibile. D'altra parte, il partito contadino tradizionale era quello socialista rivoluzionario, per cui, tra tutti i partiti che sostenevano il governo dei Soviet, spettava alla sinistra socialista rivoluzionaria, che tra l'altro necessitava, per contrastare il potere del proletariato, del sostegno dei contadini, il compito di guidarli. Smolny non aveva affatto trascurato la questione agraria. Emanati i decreti sulla terra, uno dei primi atti del nuovo JIC era stato proprio la convocazione di un congresso dei contadini. Alcuni giorni dopo comparve il regolamento per i comitati agrari di distretto, cui seguì il messaggio di Lenin ai contadini, che spiegava in termini semplici la sostanza della rivoluzione bolscevica e del nuovo governo. Il 16 novembre Lenin e Miliutin pubblicarono la direttiva agli emissari provinciali, che fu inviata in migliaia di copie nei villaggi. Thank you.